24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Ti fidi ciecamente, repubblica non vedente, non si spiega, in pratica è la repubblica cieca, milioni di elettori addormentati per vent'anni davanti ai televisori. Buonanotte senatori, caro Napolitano, te lo dico con il cuore, o vai a testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Si dice che Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Perché non pensiamo che si possa trovare risposte? 24 mattino. Milan, sei informato per caso sul fatto che il premier ungherese Orban vorrebbe introdurre la pena di morte per l'omicidio? Milan, ascoltami bene, alle 2 del giorno c'è una trasmissione tutta sul calcio. La mattina che tu mi vieni a parlare di calcio non mi va bene. Va bene, ti ringrazio. Dopo aver respirato e contato fino a 3, dico: Alessandro Milan, pelandrone, muoviti e comincia alle 6. Siamo un gruppo di milanisti storici e contemporaneamente tuoi appassionati estimatori. Al circolo del tennis ti prendono tutti per i fondelli. Per il tuo bene abbiamo deciso che non ti chiamerai più Milan, ma puoi scegliere tra Milani, Malan, Milano, Melan. Noi avremmo deciso per Milan, che ha un buon accento lombardo-veneto e non si confonde. Ciao Lazzaron. Hello, this is George Clooney and I have a message for Alessandro Milan. Alessandro, malacage! Non lo so, Giglioli, di qualcosa a te. Perché... quando fai il personaggio pubblico capita. Vabbè, George Clooney. Però sali. Anche Clooney ti chiami. Sali italiano bene. Oh, c'è questa petizione che gira su change.org. Vogliono farmi iniziare alle 6 del mattino invece che alle 6 e mezza. Sono arrivati a 50. Firmare, sì, 55 firme, Giglioli, ti rendi conto? Adesso 56. 55, un po' più dei dissidenti del PD vicino. Ho visto che ho sentito che parlavano del Milan. Volevo leggerti questo che ho visto ieri. Una squadra da B con Brocchi. Sì, ma guarda, sì, lo so. Ma in realtà Brocchi non viene più. Ma lascia perdere. Ma fai il bravo. Comunque, no, parleremo. Non è che parleremo solo del Milan alle 8. Parleremo del Milan di Berlusconi e la fine del berlusconismo e la fine di un'era. Parleremo anche di questo. Parleremo di Expo. Avremo questo Perazzini, questo notaio sarà con noi. Parleremo di tante cose. Notaio da voi. Sì, il notaio. Certo, avremo. Volevi Ionesco, era meglio. No. Sono contento, rimarrò ad ascoltarlo assolutamente, prima di andare a Piazza del San Giovanni incontrare con il mio amico Giglioli. Ci mettiamo là con i nostri panini, aspettate il concertone, ecco. Ma sì, facciamo gli anziani uno scoppone, dai. Esatto, assolutamente. Vabbè. Allora, sentite qua la Boschi ieri era da Porta a Porta, era da Bruno Vespa. Abbiamo avuto 3 voti di fiducia che sono andati molto bene, anche nei numeri, per cui chiaramente sono soddisfatta che la maggioranza abbia risposto in modo compatto, però aspettiamo lunedì perché sono fiduciosa ma prudente. Fiduciosa ma prudente, però sempre questo modo di... Chi è che ride? No, io mi piace molto come parla il suo... È fiduciosa, ma fiduciosa è bellissima, con la fiducia, fiduciosa, è fiduciosa dopo la fiducia, capito Giglioli, è fiduciosa. Ma anche Spadolini diceva sempre, sono cautamente ottimista. Vabbè, ma dai, passerà l'Italicum, no, però vi voglio chiedere passerà questo, perché sennò non faccio in tempo. Allora, c'è una bomba, conti sulle pensioni, per le pensioni, no? Sì. Come ci ha detto Vincino, cioè la Consulta ha bocciato parte della legge Fornero, che oggi fa un paio di interviste e dire sono stata ingenua, mi hanno fregate. No, però io guarda, adesso non è che voglio difendere la Fornero, ma adesso secondo te è stata una decisione del governo Monti di allora, che poi hanno preso la Fornero, l'ha messa lì, gli hanno detto così, lei ha fatto anche questo tracollo, anzi questo lo sentiamo, no? Il tracollo famoso, quello delle lacrime, dei sacrifici. Dei... E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un sacrificio. Eccola. Cioè Giglioli, lei paga questo, capisci? Ma guarda, io mi sono divertito moltissimo all'idea che Renzi pronto? All'idea? Vado? Sì, vai, vai. No, all'idea che Renzi sia arrivata la cartella Equitalia, come noi arriva la cartella Equitalia, è arrivata Renzi. Ho capito, ma arriva l'Italia, cioè tre anni fa. Ma il Sole dice che ci costerà 10 miliardi questa cosa. Il governo Monti riesce a fare figure di merda anche postume, questa è una figura di merda postuma, che poi l'abbia pensata da sola la Fornero, che l'abbia pensata tutto il governo, resta la figura di merda postuma di quel governo in cui tutti abbiamo pensato wow, figata il Loden, era entusiasmo collettivo, e questo governo Monti rimarrà comunque nella nostra memoria. La Fornero tutta la vita ha studiato pensioni, ne ha scritto sul giornale del gruppo per cui lavori tu per molti anni, l'ha insegnata all'università, e il momento in cui è arrivata a governare hanno fatto questa cosa. Vabbè, comunque la consulta ha bocciato il blocco delle perequazioni, quelli dei 1.400 euro, quindi dovremmo restituire un casino di soldi ai pensionati, pare. Secondo me dando una, cioè, ci farà invece una grande figura a Renzi, perché si apprenderà questa cosa qua, farà due derivati, troverà questi 10 miliardi e via, sarà quello che ha dato un sacco di soldi ai pensionati. Ma dove li trova? Che fa? Un magheggio? Ma 4 derivati e via, attacca, li mette in cassaforte. Ma derivati già abbiamo 42 miliardi. Ma infatti, già con i derivati, rischiamo di affondare. Ma lascia perdere. Di 40 miliardi. Ma scusami, allora in America stampano dollari e via, e noi facciamo i derivati. E noi non possiamo stampare euro. Noi facciamo i derivati, dai, con la Nomura e via, ce ne sono altri. L'Italia andrà bene. No, vabbè, metterà una tassetta. Farà una grande. No, non metterà una tassa. Tassa sulle sigarette, accise sulla benzina, sì, non si sbaglia mai, classicissimo italiano. Comunque no, a parte gli scherzi, è una vergogna piuttosto ampia. Più che una vergogna, ci costerà 10 miliardi, cioè, ma che va insieme a quella dei derivati, perché sono decisioni prese da fior di tecnici che studiano questi temi per anni e poi fanno queste puttanate immense. Vabbè, 40 miliardi di no, però aspetta, fammi capire, Vincino, dove fermi, Vincino, dove i dilettanti sono gli altri, dove troveranno sti soldi, Vincino? Adesso dai, seriamente, li hanno fatti fior di tecnici, appunto, i Ciampi li ha fatti, Draghi li hanno fatti, gli altri no, fior di tecnici meravigliosi che tutta l'Europa ci invidia, no? Hanno fatto queste cose qua. Per cui è questa qua, secondo me, aumentare i soldi ai pensionati, anche quelli là piccoli medi, no? Tra i 1.500 e i 2.000, sarà una grande mossa di Renzi, si accapperà lui questo. Ma non è che, ma qua dobbiamo, qua la consulta dice che dobbiamo restituire 500 euro in due anni a 6 milioni di pensionati, perché quella norma fu sbagliata. Questi 500 euro, questi 6 milioni saranno tutti felici e renziani. Certo, felici e renziani, ma i soldi li metti tu però, Vincino, li metti tu però. No, te l'ho detto come si fa, ancora te lo spiegare, fatelo di da Musseri come si fa, mannaggia. Da Musseri. No, perché guarda che è un buco. Vincino fa satira, di natura, non capite come funziona il mondo. Dai, su, vai, Giglioli, fa, è così. Io metterei un buco, 10 miliardi di qua, 40 miliardi di là, altro che tesoro. Io metterei Vincino al potere, Vincino al potere. Vincino all'economia, Vincino all'economia. Va bene, lo mandiamo al ristorante con Varoufakis. Vi voglio lasciare con quello che ha dormito tutta la notte là a Sala. Ma chi è Sala? Dell'Expo, è stato tutta la notte là, sta ancora là, messo là che fa pezzi di pavimento, aggiusta, dipinge con la brugola, è lì con la brugola Sala. Esatto. No, dai, un po' di ottimismo. Sarà tutto pronto oggi alle 10 per l'apertura dell'Expo tra 3 ore. Vi voglio lasciare con Buon anno, un pensiero unico. Vabbè, allora sei cattivo. Per allietarvi la giornata, io lo sapevo, per farvi andare con ottimismo, buon anno della Lega.

parlare del Milan vuol dire poi parlare anche di politica, inevitabile, perché il Milan è Silvio Berlusconi, e quindi vuol dire parlare di una persona che sta pensando, magari iniziando dal Milan, poi passando attraverso le sue TV, a cambiare gli assetti e tutti gli asset societari, e quindi è un Berlusconi che ne so, pensa al futuro, pensa a cambiare tutto ciò che ha in mano e che ha gestito per anni, perché è un Berlusconi che vuole poco alla volta un po' uscire dalla scena da protagonista. E insomma, vuol dire queste cose parlare del Milan. Infatti noi lo facciamo intanto con Maurizio Paniz, che saluto, è un avvocato. Vabbè, di Milan sa poco effettivamente. Sa Paniz, molto di Juve, buongiorno. Sa molto di Juve, lo sappiamo, juventino, si sa. Però è stato per anni deputato, è stato anche... Com'è i suoi rapporti con Berlusconi adesso, come sono, Paniz? Normali, ottimi. Beh, normali è una cosa, ottimi è un'altra cosa. No, diciamo ottimi, nel senso che ho massima stima personale, ho mantenuto un ottimo rapporto proprio sul piano dei contatti, come è giusto che sia, gli devo gratitudine per quello che lui ha fatto, ho avuto grande stima nei suoi confronti per tutto quello che ha costruito nel nostro paese, per l'esempio che ha dato moltissime volte, obiettivamente gli sono grato perché mi ha consentito di vivere una straordinaria esperienza, quella di parlamentare per 3 legislature, è stato un impegno molto forte, però sicuramente se non mi avesse candidato il suo staff io non sarei arrivato in quel posto. E quindi come vedete è uno, l'onorevole Paniz, onorevole si dice sempre, ex onorevole Paniz, avvocato Paniz, che ci può dire qualcosa di come Berlusconi starà vivendo questi momenti. E poi io vi voglio presentare un uomo che è un amico, è una persona, è un tifoso milanista sfegatato, è un volto noto tutti i giorni, tutte le domeniche sugli schermi di 7 Gold. È Tiziano Crudeli. È Tiziano Crudeli. Tiziano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, è un piacere stare con voi. È un piacere mio. Tiziano Crudeli, Banizza, presente Tiziano Crudeli quando segna. Lo saluto con molto affetto. Ci sono molto vicino in un momento così difficile come quello che sportivamente sta vivendo. Eccoli, comincia l'arroganza juventina, caro Tiziano Crudeli. Il rispetto e l'affetto è una cosa molto diversa dall'arroganza. Vabbè, rispetto ed affetto. L'affetto in genere si dà, no, Tiziano, a quelle persone che nei momenti di sofferenza. Ma Tiziano, io ti capisco, come ben sai. Allora, intanto Tiziano, ma che succede dal punto di vista pratico? Vende o non vende Silvio Berlusconi? Ma è costretto a vendere, o comunque è costretto a trovare un partner che possa consentire al Milan e al gruppo Fininvest di ridurre quelli che sono i passivi, segnatamente i bilanci passivi segnatamente del Milan. Devi partire dal presupposto che il Milan ha un 91 milioni, sì. 300 mila di passivo della gestione, ha un debito con le banche di 254 milioni, deve costruire uno stadio da 300 e rotti milioni, quindi tutti questi soldi Berlusconi in questo momento non se li può permettere, per tutta una serie di problemi, non è? Lui stacca un assegno e compra tutti, ma voglio dire non lo può fare per diverse ragioni etiche, politiche e quant'altro, insomma. E quindi di conseguenza deve trovare un partner che gli consenta di azzerare quelli che sono i debiti e di poter fare investimenti, perché lo stadio è molto costoso. Ma allora perché Tiziano? E allora perché Tiziano questa melina? Oggi la Gazzetta titola così: la melina di Berlusconi, che per chi non si intendesse di calcio, non tutti quelli che ci seguono sanno di calcio, vuol dire traccheggiare un po', no? Fare, sembrava tutto pronto, invece fare melina vuol dire perdere un po' di tempo, no? Ieri sembrava l'incontro già fatto con Mr. B, questo thailandese, e invece tutto rinviato a oggi, e Berlusconi pare che dica: ma non posso vendere adesso che va così male il Milan, no? Ma vedi, a mio modo di vedere, insomma, cioè, voglio dire, è una questione di una trattativa. Se ci sono 3 concorrenti e io cerco di vendere al miglior offerente, insomma, e quindi tergiverso. Anche perché stiamo parlando di 500 milioni, non stiamo parlando di nocciolini. Quindi ci vogliono delle garanzie precise e poi ci vuole la certezza che chi investe anche nel Milan, non solo nelle iniziative immobiliari che per esempio lo stadio può consentire di ricavi e investimenti fatti in maniera intelligente. Cioè, prima si investe nel Milan e poi si pensa al resto. Che quindi vuole vedere se magari questo, invece di Mr. B, c'è questo altro Richard Lee. Sembra sì, il nome esatto, uguale. Sì. Anche questo è di Hong Kong, non è thailandese, ma è di Hong Kong. Anche questo nel senso estremo oriente. Comunque, il dato di fatto, Tiziano Crudeli, che si apre ai cinesi, si apre agli arabi, perché dicono che dietro Mr. B ci siano anche gli arabi. Che effetto ti fa da tifoso rossonero? Il calcio è molto cambiato negli ultimi anni. Vedi, io sono un vecchio lupo di mare, sono sì un sentimentale. Per me esiste prima di tutto il Milan. Sì. E poi se il Milan è di Berlusconi, grazie di esistere Berlusconi per quello che calcisticamente ci ha dato in questi 28-29 anni. Ma se domani il Milan diventa di Francesco Franceschetti e Franceschetti mi assicura degli investimenti, mi assicura un Milan competitivo ai massimi livelli, viva Franceschetti! Onore al merito a Franceschetti. Ecco. Molto chiaro. È molto chiaro. Il Milan è la maglia, i colori, vabbè, ma questo è giusto. Il tifoso ragiona così. L'importante è questo. Però è interessante. Guarda, io sono sentimentale, quindi sono romagnolo sentimentale, quindi mi rimango molto affezionato alle persone. Però devo anche essere pratico. Ma no, ma io sono assolutamente d'accordo. Non credo che qualcuno si lamenti quando Abramovic al Chelsea ha portato dei soldi e ha fatto vincere le cose. In Gran Bretagna, oppure quando il Paris Saint Germain, che ha vinto solo scudetti e non in Europa, però sono arrivati i soldi dei sceicchi, hanno portato Ibrahimovic, Cavani ed altri, non penso che ci siano stati problemi. Però qua Paniz la questione è molto chiara. Berlusconi lo vede un po' sul viale del tramonto con queste operazioni. Profili. Ci sono due profili, c'è un profilo umano e c'è un profilo finanziario. Dal punto di vista umano dobbiamo riconoscere che Berlusconi non amerebbe vendere in questo momento, non è un perdente, è un vincente, e avere un Milan in situazione sportivamente parlando abbastanza difficile non lo gratifica e non gli consente di presentare il volto che vorrebbe presentare della sua realtà sportiva. Quindi questi tentennamenti sono comprensibili da questo punto di vista. Poi c'è l'aspetto finanziario, questa è un'operazione estremamente delicata, parliamo forse di 700 milioni, cioè di cifre veramente importanti, e soprattutto parliamo anche dell'immagine di una realtà che comunque costituisce un punto di riferimento dell'Italia nel mondo, come lo è la Juventus, come lo è stata l'Inter, in misura forse più ridotta, però assolutamente significativa. E questi dati di fatto vanno considerati sotto tantissimi profili. Quello che però da questa vicenda secondo me va sottolineato è l'incredibile livello di difficoltà che ostenta la grande Milano. Noi pensiamo che Milano è la capitale economica del nostro paese. E se le due realtà più sportivamente significative come l'Inter e il Milan finiscono in mani straniere e soprattutto di persone che vengono dal profondo est, noi dobbiamo essere interessante chiari, questa cosa, è cambiata completamente la struttura del panorama economico al quale eravamo abituati. Cioè la capitale finanziaria dell'Italia è una delle capitali europee, anche Milano, la Milano degli affari, non trova persone disposte a investire più nel calcio. Non solo, e perde la sua immagine. Dobbiamo essere molto chiari, perde l'immagine di italianità che aveva costruito nel mondo. Noi abbiamo esportato Inter, abbiamo esportato Milan e l'abbiamo esportato attraverso delle figure carismatiche del patrimonio economico-finanziario del nostro paese. Oggi non ci sono più. Questo è un segnale molto forte, intendiamoci, non è che non ci sarebbero, perché ci sarebbero, ma non vogliono impegnarsi. Io le faccio un nome per tutti, Del Vecchio, Vecchio che ha un cuore, esatto, che ha un cuore milanese e ha un cuore interista, dobbiamo essere molto chiari, se volesse potrebbe fare qualsiasi cosa, però non crede evidentemente nel veicolo calcio, non crede evidentemente in questa opportunità per questo il business è interessante, legato. Però si può dire si può vedere anche in due modi, Panizza, perché si può dire che Parigi, che certamente è anche una capitale finanziaria, Londra, che è la capitale finanziaria mondiale, forse insieme a New York, invece hanno aperto alla globalizzazione del mondo del calcio, quindi si potrebbe dire che Milano ha aperto al futuro, oppure lei dice invece vede una perdita di identità nazionale in questo? Sicuramente è aperta al futuro, questo è fisiologico, perché nel momento in cui arrivano entità dal lontano oriente non può che essere questo un segnale di apertura, però nel contempo è anche un segnale di forte disgregazione di quel patrimonio imprenditoriale che noi abbiamo esportato. Insomma, Roma 2000 anni fa ha dominato il mondo dal punto di vista finanziario, Milano è stata la realtà che negli ultimi 50 anni, possiamo dire anche 100, ha rappresentato il punto di riferimento imprenditoriale del nostro paese. Insomma, i nomi alla Moratti, se vogliamo alla Frizzoli, se vogliamo agli ex presidenti importanti che ci sono stati nella storia dell'uno o dell'altra squadra milanese, oggi non ci sono più. Sentimentalismo, ecco, vedi Tiziano. Certo che Tiziano Crudele, effettivamente c'è il rischio, questo Mr. B dice che voglia quotare il Milan alla borsa di Hong Kong. Cioè, tu non hai un po' la sensazione che si sfaldi un po' quel legame tra i tifosi, la gente del popolo e la propria squadra del cuore, Tiziano? No, perché bisogna essere pratici. Cioè, il tifoso cosa pretende della propria squadra? Che la propria squadra sia competitiva. Per essere competitive ci vogliono investimenti onerosi che le società, che i titolari italiani delle varie società di calcio non si possono permettere. E allora si va a cercare partner stranieri. L'ha fatto la Roma. Io vorrei però, posso concludo. L'ha fatto la Roma, l'ha fatto l'Inter, l'ha fatto il Chelsea, l'ha fatto il Monaco. Adesso su tutte le società che vanno per la maggiore sono aperte a investimenti di stranieri. Quindi non è che i tifosi della Roma perdono un legame perché il proprietario è Pallotto. Magari c'è qualche. Chi c'è Panizza in questo discorso? No, volevo rovesciare il discorso. E dire, lo faccio da juventino, quindi naturalmente lo faccio con la voce del cuore, però anche con la voce della ragione. E pensate a quello che ha fatto la Juventus. La Juventus ha rovesciato il criterio, cioè prima la sua realtà proprietaria, il gruppo Agnelli, tutta la struttura legata alla famiglia Agnelli, ha globalizzato la propria azienda, la propria realtà, il proprio cuore imprenditoriale, lo ha trasferito dall'altra parte dell'oceano o in parte trasferito dall'altra parte dell'oceano, ha spostato in Olanda una propria sede che ha un certo punto di riferimento, e attorno a questa scelta imprenditoriale che ha consentito di nominare il mondo ha poi proiettato la propria squadra. Sì. Oggi la Juventus, che ha una matrice sicuramente italiana nella sua proprietà, perché il cuore è questa Agnelli, la sua forza, però secondo è già, sì, è ma secondo lei ma secondo lei questa è la sua forza? Certo, è un principio diametralmente opposto. Cioè, la Juventus è andata a dominare il mondo attraverso il dominio della proprietà. Adesso non si espanda, non si esalti. È andata a dominare il mondo la Juventus ancora, questo lo dobbiamo vedere. Parliamo dal punto di vista del messaggio imprenditoriale, messaggio mediatico, naturalmente domina il mondo la Juve, come lo domina il Manchester United, come lo domina il Real Madrid, come lo domina il Barcellona. Cioè, sono realtà, oggi le 8-10 realtà sportive significative che consentono di far battere i cuori sia in fondo all'Argentina che in fondo all'Australia. Vedi Tiziano che si sta un pochino, mi sa che Carletto Ancelotti deve un attimo ridimensionare queste pretese massimo rispetto per il Real Madrid, però il mio è un messaggio imprenditoriale di tipo esattamente rovesciato rispetto a quello che succede all'Inter e Milan. È vero. Per concludere, io voglio concludere con questo. Allora, per chi non conoscesse Tiziano Crudele, le sue performance straordinarie in TV, Tiziano Crudele, che lo sentite compassato adesso così, ma è uno che si trasforma. Tiziano, ci sono migliaia di audio e di video che ti riguardano. Ne abbiamo scelto uno perché riguarda una persona che tutti noi milanisti abbiamo nel cuore e che in questo momento, vabbè, è questo. Pippo mio, la festa! Pippo! Insomma, Pippo Inzaghi segnava quando era in campo. Questo credo sia uno dei due gol al Liverpool nella finale giusta di Champions League. Caro Tiziano Crudeli, ma che succede a Pippo Inzaghi? Perché? Amico mio, è un conto essere stato un grande giocatore, è un conto essere occupare un altro ruolo come quello dell'allenatore o come quello del dirigente. La storia insegna che non è scritto da nessuna parte che un grande giocatore sia anche un grande allenatore. Purtroppo lo abbiamo. Questo è un dato di fatto, ci sono diverse decine e decine di esempi. L'ultima hanno toccato noi, insomma, Seedorf, grossa personalità e con sicuramente grande competenza, ma non ha tutti i requisiti e l'ha dimostrato di poter fare l'allenatore, perché ha rotto con tutti, con la società e con i giocatori. Inzaghi per tutta una serie di motivi non è riuscito a mettere insieme un organico che secondo me non è di valore assoluto, ma non è neanche così scarso da occupare la decima posizione. Sì, secondo me. Comunque chiudo. Sì. Recentemente è stata fatta un'intervista a Marcello Lippi, al quale è stato chiesto qual è la squadra che già gioca meglio in assoluto in Serie A da noi. E lui ha risposto l'Empoli di Sarri. Allora io vi faccio una domanda: ma se prendiamo individualmente i valori tecnici dei giocatori del Milan, li mettiamo sul piatto della bilancia, li confrontiamo con quelli dell'Empoli uno per uno, al di là del rendimento, dell'incostanza di rendimento dei rossoneri, Milan vale molto di più. Guarda, Milan dovrebbe giocare meglio, Milan dovrebbe essere in posizione più console. Non dico la Juventus è nettamente più forte, ma non può essere decimo con i giocatori che si ritrovano. Io penso che sono dell'idea che tutti ovviamente abbiamo delle individualità superiori, ma che su 11 dell'Empoli e 11 del Milan 6 o 7 si equivalgono in realtà. In funzione del rendimento, hanno un rendimento decisamente superiore. Io ieri sera ho visto l'Empoli, ci sono stati tre autoreti. Sì. Ma battere il Napoli 4-2 giocando un ottimo calcio. Allora questo è merito di Sarri, fra l'altro un allenatore non più giovanissimo. Insomma, la questione anche per il suo look, perché va in panchina con non in giacca e cravatta, ma in tutto. L'importante sono i risultati. Allora, perdonami, a proposito di Empoli, io ho visto Saponara, un giocatore dirottato dal Milan, che è il migliore in campo, che sta facendo meraviglie. Ho visto Niang del Genova a segnare 4 gol. Torres è ritornato all'Atletico, sta facendo dei gran gol. Era al Milan e adesso è uno dei giocatori. Ci stiamo facendo una rakiri in diretta, Tiziano. Fermiamoci qui, perché sennò veramente ci deprimiamo, che è pure la festa del 1° maggio. Allora, dai, io vi ringrazio Maurizio Paniz per essere stato con noi, avvocato juventino vicino a Berlusconi. Ringrazio Tiziano Crudeli, volto di 7 gold, per essere stato con noi, tifosissimo rossonero. Berlusconi venderà, chi lo sa. Intanto dopo la pubblicità avremo ospite l'alpino, quel notaio alpino Giuseppe Parazzini, che ieri ha sfidato, facendosi prendere a uova sul vestito, giacca e cravatta, i deficienti dei No Expo che erano sotto. Il mio faraone! L'ha messo ancora il mio faraone! Allora, 8:40 minuti. Come sapete, oggi apre ufficialmente l'Expo. Ieri c'è stata la manifestazione così di esordio, il concerto di Bocelli in Piazza del Duomo. Se volete intervenire 800 24 00 24, perché vogliamo parlare un po' di quello che è successo ieri, le contestazioni. Oggi purtroppo si teme, così racconta il giornale, di contestazioni ancora ben più pesanti rispetto a quelle che ci sono state ieri. Nelle contestazioni di ieri c'è un simbolo, una persona, un uomo che è stato immortalato da tutti i telegiornali e oggi su tutti i giornali, una fotografia che già fa parte in qualche modo della storia di queste Expo, di queste contestazioni. È un notaio è un alpino, è stato presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, che ieri, quando ha visto e ha sentito le contestazioni, si è esposto, è uscito sul balcone del proprio ufficio esponendo una bandiera dell'Italia. È stato subissato di fischi urla e soprattutto è stato vittima di lanci di uova. C'era questa scena di uova che gli arrivavano sul vestito, sulla faccia, sul volto, e lui impassibile. Si tratta di Giuseppe Parazzini, che saluto, buongiorno e benvenuto Parazzini, eccoci qua. Buongiorno a lei. Senta, intanto lei come si sente nel ruolo di essere assurdo a simbolo, non so se suo malgrado, per questa prima giornata di Expo? No, beh, mio malgrado no. In fondo, più che essere io simbolo, è la bandiera che ho esposto, ma poi sono anche abituato ad essere un po' un simbolo, essendo stato presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi rappresento dei valori e degli ideali, e l'ho fatto con piacere e con tanta gratificazione. Quindi non sono sorpreso di questo atteggiamento e del risultato, ahimè non voluto, ma che comunque mi è arrivato. Mi dica un po', Parazzini, lei che cosa voleva fare con questo gesto di fronte alle persone che contestavano? Perché si è messo lì impeccabile, impassibile e immobile di fronte alle uova che le arrivavano? Ma le dirò che inizialmente sono rimasto anche un po' sorpreso da questo atteggiamento. Avrei dovuto aspettarmelo, conoscendo un po' la gioventù, o meglio, alla non tanto gioventù, perché quelli che hanno fatto il peggio come atteggiamento non erano tanto giovani, ma erano i soliti soggetti che probabilmente tutti conoscono. Io ho voluto solo testimoniare che in fondo c'è un cittadino che di fronte a certi atteggiamenti si richiama a certi valori, a certi ideali, e soprattutto mi dà fastidio questo atteggiamento di voler distruggere, non sapere come nazione, come popolo, trovare un attimo di coesione nei momenti importanti. Dobbiamo sempre squalificarci, ma non possiamo. Sono dei problemi, ma quando si tratta di fare qualche cosa, farlo insieme e dimostrare di essere perlomeno quasi uguali agli altri, no, dobbiamo sempre distruggerci, autodistruggerci. Lei ha detto, beh, ma quando, cioè, lei si aspettava che cosa? Fischi sicuramente, si aspettava addirittura anche il lancio di oggetti e le uova? Mi avrebbero fatto peggio come atteggiamento se fossi stato deriso o irriso, ma così mi ha inorgoglito questo atteggiamento. Cioè, le uova di quelle persone sono delle medaglie da puntarsi al petto. Ma certo, ma poi le dirò che a me piacciono le uova, quindi ad un certo punto ovviamente le uso in una maniera diversa. Sicuramente, ha anche detto, credo in un'intervista, ho fatto lo shampoo alle uova, ma so, esatto, che fa bene ai capelli lo shampoo. Il mio intervistatore però mi ha detto che lui aveva provato in gioventù e aveva persi tutti. Io comunque ho una criniera abbastanza folta, penso di non correre più questo pericolo. Senta, ma che pensa di queste contestazioni? Un po' ce l'ha già detto, dire, ma com'è possibile, siamo un paese nel quale si deve solo, invece che mettersi attorno a un tavolo a discutere, contestare. Però i contestatori ci sono dappertutto, in realtà. Io ho fatto l'università nel 68, quindi conosco benissimo tutta la situazione. Ma sostanzialmente io penso che sia il risultato di una scarsa educazione, scarsa, mancanza di esempi, anche in famiglia, ovviamente, poi nella scuola. E poi c'è questo concetto che sostanzialmente, se un albero deve crescere abbastanza diritto, bisogna curarlo dall'inizio, da quando viene piantumato all'inizio, che è una pianticella. Qui manca ogni controllo, manca ogni richiamo all'educazione, ma tutti questi ragazzi sbragati, mani in tasca, politici che danno il pessimo esempio. Vediamo le riunioni internazionali, ci sono dei politici che si presentano con le mani in tasca, senza la cravatta, ma insomma la forma in certe circostanze dà un'impronta, non dico tutto forma, però aiuta. Un po' di forma ci vorrebbe, un po' di forma e più educazione. Lei ha detto anche che ci vorrebbe da ripristinare la leva militare obbligatoria. Ah, io sono uno strenuo difensore, prima di tutto perché sono soddisfatto di averla fatta io e sono sicuro che ha contribuito a formarmi e a rendermi un degno cittadino quale mi ritengo italiano. E poi sostanzialmente ho imparato a convivere con persone che mai avrei immaginato di poter convivere se non avessi fatto questa esperienza, e soprattutto ho imparato prima di tutto ad ubbidire, e questo mi ha permesso poi di comandare. I giovani al giorno d'oggi vogliono solo comandare e non imparano prima ad ubbidire. La Naia fatta bene negli alpini come l'ho fatta io, l'hanno fatto tante altre persone, farebbe bene a noi e a tutti i giovani, A questi. E ovviamente le hanno chiesto anche lei li denuncerà, dice ma che però guarda, ma potevano prenderla di mira anche peggio, cioè avrebbero potuto decidere di spaccare qualcosa, di spaccare vetri, di spaccare. Sì, ma sono già infelici così, non è inutile insistere. Mi dispiace per loro in fondo, mi dispiace anche per le loro famiglie, però alcune se lo meritano. Alcune famiglie se lo meritano. Sì, diciamo. Sì, non c'è dubbio. Alcune famiglie e alcune istituzioni se lo meritano di avere allevato e coltivato questi poveri ragazzi. Ma quindi lei come. Però alcuni ha detto che non sono ragazzi, alcuni anzi i peggiori, più scalmanati, no, erano. Anziani, ma certamente ultra ventenna, ultra al di sopra dei 20 anni di età, certamente. Mentre ci sembrava che il corteo fosse costituito prevalentemente da ragazzi un po' più giovani, mi è sembrato. Poi ovviamente il lancio delle uova mi ha impedito un'analisi, una verifica attenta. Ma lei, l'ultima cosa è questa, lei ha capito, cioè nel momento in cui lei è uscito, lei ha proferito qualche parola, ha detto qualcosa, nel momento in cui lei è uscita le hanno lanciato le uova, così. Guardi che io ero più che altro curioso di vedere. Ma perché? Cioè, perché è partito il primo uovo? Il primo, se ne è data la spiegazione? Cioè, vedono uno al balcone e gli tirano un uovo. No, è partito perché quando sono iniziati alcuni. C'è stato un gruppetto che ha incominciato fascista, poi il dito medio alzato. Ma così? E poi sono usciti due o tre, ovviamente, nero vestiti. Sì. Che hanno incominciato ad inveire, e poi dalla massa centrale è iniziata la sassaiola di uova, diciamo. Vabbè. Danni al vestito? Vabbè, l'avrà mandato in tintoria. No, in tintoria oggi no. No, però è lì in attesa di andare il più presto possibile in tintoria. Di andare in tintoria. Giuseppe Parazzini, io la ringrazio molto per essere stata con noi. Io l'ho letta in rassegna stampa come simbolo, cioè ho detto per me è il simbolo di questa vicenda di Giuseppe Parazzini rispetto ai. Ho usato magari un termine un po' poco educato, di coloro che stavano sotto, un po' su Twitter li ho definiti coglioni, ma adesso. Si può dire. Si può dire. Comunque, guardi che un alpino e un notaio difendere la bandiera, direi quasi fa parte dell'istinto. Vabbè, ma in teoria c'è anche questa cosa, tutti gli italiani dovrebbero, che male c'è, che cosa c'è di confronto della bandiera? La bandiera, cioè guardate negli Stati Uniti ogni casa espone la bandiera, magari uno contesta il governo, ma cosa c'entra la bandiera è una cosa diversa rispetto, no? A quello che è super è al di sopra, ma è questo che non si capisce. Siamo dei provincialoni, siamo dei brocchi, ecco. Siamo dei brocchi. Quelli che perdono, noi siamo dei brocchi. Non lo dica di sti tempi, che io sono del Milan e stava arrivando Brocchi al posto di Inzaghi, e vedete che poi tutto torna. La ringrazio, Giuseppe Parazzini, notaio alpino, ex presidente dell'Associazione Nazionale Alpini dal 98 al 2004, e che è stato bersagliato ieri da uova perché è uscito nel balcone del suo ufficio e ha esposto la bandiera italiana ai No Expo che passavano sotto. Capite, succede anche questo. E dopo il traffico ritorneremo con un ospite che abbiamo già avuto, un albergatore di Bormio che ha accolto nella sua struttura alcuni migranti e che ha avuto qualche problema. Tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti, vi presenta. Allora, se vi ricordate, qualche giorno vogliamo concludere questa puntata con un ospite che già ci è venuto a trovare. Si tratta di un albergatore di Bormio che gestisce l'hotel Stella e che ospita alcuni migranti. Si tratta di Carlo Montini. Buongiorno e ben ritrovato, Montini. Buongiorno a voi. Come va? So che c'è stata qualche vicissitudine. Sì. Diciamo, e cioè? Che abbiamo, è qualcuno che, a cui non va giù questa storia, che non gradisce, mi ha mandato delle lettere minatorie minacciando me e la famiglia. Cioè, quindi... No, non so, vi rendete conto, italiani? Cioè, questo ci sta dicendo Carlo Montini, rispondendo tra l'altro a un invito di prefetture, del Ministero dell'Interno, delle persone che dicono bisogna accogliere i migranti perché vanno distribuiti in tutta Italia, bisogna accogliere in attesa che queste persone vengano valutate per capire se hanno tutti i diritti a diventare profughi, rifugiati. Lei ne ospitava, credo, 5? 5 o 6? Sì, 5. Sì, ne avevo 5, sì. E le sono arrivate minacce. Sì, mi sono arrivate minacce, a cui non do eccessivo peso perché chiaramente sono lettere di mitomani, vabbè, che comunque pazzi in giro ce ne sono sempre, però voglio dire, non voglio dare eccessivo peso a questa cosa. No, peso no, perché effettivamente sono d'accordo con lei, poi sono persone che mandano lettere e poi fortunatamente non fanno nulla, si sfogano così, ma sì. che tipo di interpretazione dà, insomma, a questo clima che lei già ci aveva raccontato non era dei migliori quando ha deciso di prendere questa... Sì, diciamo che non è cambiato, ho ricevuto da parecchie persone... complimenti, proseguire su questa strada, però diciamo che il clima dei Bormini, se mi è permesso dirlo, non è tanto cambiato. Cioè il clima dei suoi concittadini? Sì, più che concittadini, dei miei colleghi, albergatori e commercianti, perché giustamente loro non vedono la cosa e hanno l'idea che il fatto che ci siano questi migranti possa portare danno al turismo del paese. Ecco, mi faccia capire. Dicono in pratica che squalificano l'immagine di Bormio, questo. Esatto. Hanno paura che la gente, sapendo che ci sono queste persone, non venga più a Bormio a fare le vacanze, che annullino le loro prenotazioni e quindi a seguito di stagioni già non felici, già non prospere, temono che questo fatto porti ancora a peggioramenti del discorso del turismo. Succede questo. Io, Montini, non so, le mandiamo intanto la nostra solidarietà per quanto possa contare, le mandiamo un abbraccio. Per me è libero di fare ciò che vuole, ovviamente lei continuerà su questa strada, ma questo succede in Italia. Un albergatore che ospita alcuni migranti, come chiesto, ripeto, peraltro invitato da prefetture eccetera, e viene o minacciato oppure in qualche modo isolato dai colleghi. Viva l'Italia! È il 1° maggio, si apre l'Expo e dopo il giornale radio ci sarà uno speciale di Radio 24 su questo. Viva ovviamente gli alpini, ovviamente a maggior ragione oggi dopo aver avuto Giuseppe Parazzini. Noi ci fermiamo qui, a lunedì 6:30.